Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono riusciti a fare una speculazione vergognosa, indegna, sciacallesca, sulla base di una banalissima osservazione oggettiva fatta da tutti in Italia. Cioè che in qualche realtà del nord si sono prese delle misure con qualche ritardo. Questa è la reazione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, alle polemiche e all'indignazione suscitate dalle sue parole di ieri, quando ha detto, appunto, De Luca, a proposito della gestione della pandemia al nord: quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche, Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi, sempre ha detto De Luca, si sono fermati a contare migliaia di morti. E dopo le critiche che ha ricevuto da più parti ha detto che si tratta, avete sentito, di speculazioni sciacallesche. Ma è di oggi l'annuncio, sempre del presidente della regione Campania De Luca, di una ordinanza con la quale farà chiudere in Campania tutti i negozi dove addetti, gestori e anche clienti non rispettino il fatto di l'obbligo della mascherina, quindi all'interno dei negozi degli ambiti chiusi. A commentare questa iniziativa, Effetto Notte, ci sarà il sindaco di Napoli, De Magistris, sentiremo che cosa dice. Poi naturalmente si ritornerà sulla politica, sul fatto che in Europa PD e Movimento 5 Stelle su un emendamento al famoso, famigerato MES hanno votato in modo disgiunto, poi su un'altra cosa, sulle conclusioni del straordinario Consiglio Europeo, quello, la maratona negoziale, di nuovo c'è stato un voto con una maggioranza variabile, insomma. E poi in questo momento Conte, Presidente del Consiglio, che dopo aver ottenuto i risultati sui recovery fund in seno all'Unione Europea, adesso è accerchiato dalla maggioranza ma anche dall'opposizione per capire e decidere come spendere quei soldi, quei fondi, in parte sussidi e in parte prestiti da restituire, che appunto stanzia l'Europa per l'Italia, la maggiore quota, no, per quanto riguarda i paesi europei. Insomma, come sempre, puntata ricchissima, quindi voi, se volete poi commentare i fatti principali della giornata, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, per voi, la quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure WhatsApp sempre al 349-238-6666, 349-238-6666, e poi il Twitter, quello di Effetto Notte, durante la diretta, oppure Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano. La situazione del coronavirus in Italia: sale ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore, 306 a fronte dei 282 di ieri, le nuove vittime sono invece 10 rispetto alle 9 di ieri. E il presidente della Campania, De Luca, annuncia un'ordinanza per chiudere i negozi dove gestori e clienti non usano la mascherina. A Effetto Notte ospite il sindaco di Napoli, De Magistris. In Europa superati intanto i 3 milioni di contagi. Recovery Fund, Conte assediato da maggioranza e opposizione per decidere come spenderli. Intanto PD e Movimento 5 Stelle votano divisi all'Europarlamento su una modifica al MES presentata dalla Lega. L'inchiesta sulla caserma di Piacenza, anche la Procura Militare di Verona apre un fascicolo sui sei carabinieri arrestati e il ministro della Difesa Guerini annuncia un'inchiesta interna all'arma. La vicenda di Manuel Bortuzzo, ridotta la pena ai due uomini che lo hanno costretto sulla sedia a rotelle. Spazio, la grande corsa a Marte. Dopo Emirati e Cina, gli Stati Uniti preparano il lancio di Perseverance. Calcio Serie A maschile, la Juventus si gioca il primo match point a Udine. Partiamo quindi, come sempre, dai dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Protezione Civile sono 306 a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 rispetto alle 9 di ieri, per un numero complessivo dall'inizio della pandemia in Italia di 35.092 decessi. Salgono ancora i contagi in Italia, 306 a fronte dei precedenti 282, 10 le vittime. Unica regione senza casi la Val d'Aosta, la Lombardia ne ha registrati 82, 55 l'Emilia-Romagna, 15 dei quali in un nuovo focolaio in una residenza per anziani a Bologna, 30 per il cluster di Rovereto in Trentino. 26 contagi in Lazio, tra cui due badanti rientrate a Roma in autobus dalla Romania, 16 nuovi positivi in Campania, da dove il sindaco di Capri, dopo la notizia di due turisti risultati poi positivi, tranquillizza sull'isola. non ci sono criticità. Fondamentale, ha detto il ministro della Salute Speranza 24 Mattino, tenere sotto controllo i focolai, così poi il ministro quanto alla possibilità di una seconda ondata in autunno. Non possiamo avere certezze su quello che avverrà tra settembre e ottobre. La seconda ondata non è certa, ma dobbiamo considerarla come possibile. E io penso che il nostro paese oggi sia oggettivamente più forte di quanto fosse nel mese di febbraio. Proprio per prevenire il rischio di una seconda ondata, il Belgio ha deciso di imporre le mascherine anche nei mercati all'aperto e nelle vie dello shopping, ma a preoccupare la Romania, che ha registrato per il secondo giorno un record di contagi, 1.112. Guardando al mondo, l'India ha sorpassato il 1.200.000 casi, con un balzo record di oltre 45.000 nuovi positivi, il più alto mai registrato. L'India è al terzo posto al mondo per casi, dopo USA e Brasile, paese quest'ultimo dove nell'ultimo giorno i contagi sono stati quasi 68.000. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Covid è molto forte anche in Israele, che registra il record di nuovi casi, in Sudafrica, che mette in allarme tutto il continente, finora relativamente risparmiato. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, il numero dei contagi da coronavirus ha superato la soglia dei 4 milioni, con i decessi saliti ad almeno 144.000. Questo emerge dalla banca dati del New York Times. La politica italiana adesso, agenda di governo, stato d'emergenza e scostamento di bilancio al voto la prossima settimana. Il premier Conte riferirà in Parlamento il prossimo 29 luglio sullo stato di emergenza per il Covid che il governo vorrebbe prorogare a fine ottobre. Lo stesso giorno al Senato si voterà sullo scostamento di bilancio da 25 miliardi approvato dal Consiglio dei Ministri. Sull'uso delle risorse della Recovery Fund, intanto, il Partito Democratico annuncia che chiederà l'istituzione di una commissione bicamerale. Oltre alle opposizioni, a chiedere un ruolo centrale del Parlamento sulla questione è anche il presidente della Camera Fico. Divisa sul MES, la maggioranza nel frattempo si spacca anche sulla nuova legge elettorale, che va incontro a un nuovo stop in commissione dopo il voto con il centrodestra da parte di Italia Viva. Forza Italia, intanto, fa sapere che non è scontato il suo sì allo scostamento di bilancio, per il quale è richiesta una maggioranza qualificata. Voteremo solo se sarà indicato in modo chiaro cosa verrà fatto con quelle risorse, aggiunge Meloni di Fratelli d'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per i temi politici ci sarà poi ulteriore spazio nel corso di questa puntata. Tra le misure che entrano nel prossimo decreto a proposito di occupazione e di economia c'è anche la decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Lo assicura la ministra del Lavoro Catalfo al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con i sindacati CGIL e CISL e UIL. Nel pacchetto dovrebbe rientrare anche la prosecuzione del blocco dei licenziamenti, con eccezioni come la cessazione di attività. Si prevede anche la proroga della cassa integrazione di ulteriori 18 settimane. Crisi della ristorazione, dalla ministra Bellanova la proposta di un bonus salva ristoranti, un bonus filiera italiana. Un fondo ad hoc del valore di 1 miliardo, un bonus a fondo perduto da 5.000 euro a ristorante per l'acquisto di prodotti agroalimentari nazionali. È la misura che la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova propone di inserire nel prossimo decreto di sostegno ai settori economici e produttivi. Una misura che intende garantire, spiega la ministra, un'iniezione di liquidità nel sistema, favorendo il mantenimento in vita degli esercizi e sostenendo l'acquisto di prodotti italiani. La proposta raccoglie il plauso delle associazioni di settore. Roberto Calugi, direttore generale di FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Sicuramente un segnale positivo di attenzione non soltanto all'importanza del settore della ristorazione in generale, ma finalmente anche di comprensione di quanto il settore della ristorazione è funzionale ad una catena importante come quella agroalimentare. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24. E passiamo all'inchiesta sulla caserma di Piacenza. La Procura Militare di Verona apre un fascicolo sui 6 carabinieri in servizio presso la caserma Levante, appunto di Piacenza. Il PM militare Stanislao Saeli ha precisato di aver proceduto sulla base dei provvedimenti cautelari emessi dalla Procura della Repubblica di Piacenza, da cui sembrano già emergere estremi di reati militari. Il Comando Generale dei Carabinieri ha nominato intanto il sostituto del comandante della compagnia della città emiliana, sospeso in quanto indagato. Domani a Piacenza ci saranno gli interrogatori di garanzia dei 6 arrestati e intanto il ministro della difesa Guerini ha annunciato anche un'inchiesta interna all'arma dei carabinieri. Poi ci sarà modo di ritornare sugli sviluppi di questo caso nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Siamo all'estero, si torna a parlare di Brexit. Nonostante manchino solo poco più di 5 mesi alla fine del periodo di transizione, la Gran Bretagna rischia un taglio netto con l'Europa il 1 gennaio, con dazi doganali e caos alle frontiere. Impossibile chiudere un'intesa sulle future relazioni tra Unione Europea e Gran Bretagna entro luglio. Ora Londra ammette che la prossima partnership tra i due blocchi, a poco più di 5 mesi dal taglio definitivo del cordone ombelicale con la fine del periodo di transizione, è in serio pericolo. Il capo negoziatore britannico Frost ha ammesso al termine di un altro round negoziale che l'uscita definitiva senza intesa resta possibile e che le imprese devono prepararsi a tutti gli scenari. Frost ha specificato che questo mese non si chiuderà alcun intesa preliminare, come il governo britannico aveva auspicato. L'obiettivo ora è settembre. Pessimista anche il suo omologo europeo Barnier, che ha aggiunto come un'intesa tra i due blocchi sia in questo momento improbabile. Regole sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza da un lato e pesca dall'altro restano i nodi più importanti da sciogliere. Al di là delle schermaglie negoziali, sotto traccia però qualche lento passo in avanti sarebbe avvenuto negli ultimi mesi. Questo mentre il premier Johnson, a un anno dal suo ingresso a Downing Street, è volato in Scozia per rinsaldare il legame con la nazione del Regno maggiormente percorsa da 20 secessionisti. In dote ha portato 50 milioni di fondi, ma il clima con la First Minister scozzese Sturgeon resta glaciale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia, con la cronaca, è stato fermato l'uomo ritenuto responsabile dello stupro di una donna di 45 anni al Parco Montestella di Milano. 24 anni, senegalese clandestino, in Italia dal 2014. I poliziotti della squadra mobile di Milano hanno fermato con l'accusa di violenza sessuale l'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione avvenuta al Parco Montestella di Milano una settimana fa. Vittima una donna di 45 anni residente nel quartiere. Stava portando il cane al parco per una passeggiata. Erano le 18 di mercoledì 15 luglio. 8 giorni di indagini serrate. Le telecamere hanno permesso di ricostruire la fuga dell'aggressore, mentre l'esame del DNA è risultato decisivo. Sul luogo della violenza, infatti, sono stati raccolti dalle forze dell'ordine numerosi reperti biologici. L'uomo era già stato individuato poche ore dopo l'aggressione e controllato a vista per evitare che reiterasse la violenza. Il fermo è scattato questa mattina, appena pronto l'esito della comparazione del DNA. Marco Oliva, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Ancora la cronaca, con un delitto efferato che ha ucciso Marcella Boraso, la 59enne trovata cadavere ieri nella sua casa a Portogruaro vicino Venezia. Lo ha fatto sbattendole ripetutamente la testa su un bidet del bagno, un'azione così violenta che il sanitario è andato in frantumi. È uno dei particolari resi noti dai carabinieri che hanno fermato per l'omicidio un 23enne marocchino, amico della vittima. Nonostante la casa fosse stata poi intenzionalmente data alle fiamme, il medico legale ha notato tracce di sangue della vittima sul soffitto del bagno e in caso di una caduta accidentale della donna gli schizzi non sarebbero potuti arrivare così in alto e risultano gravi e concordanti gli indizi a carico appunto del 23enne di origini marocchine. La Corte di Appello di Roma ha ridotto a 14 anni e 8 mesi di carcere la pena per gli autori del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, avvenuto a Roma nel febbraio del 2019. In primo grado invece Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano erano stati condannati a 16 anni, ora invece 14 anni e 8 mesi. Ho sentito Manuel, ha detto il suo avvocato, e la sua famiglia, che hanno accettato serenamente la decisione dei giudici senza nessuna polemica. Dal canto mio è una sentenza, dice il legale del nuotatore, che rispetto ma che non condivido, attendo di leggere le motivazioni. Dobbiamo capire perché è caduta l'accusa di tentato omicidio nei confronti della fidanzata di Manuel. C'è notizia anche di uno sciopero di 4 ore dei lavoratori del settore delle autostrade il 9 e il 10 agosto. Riguarderà il 9 il personale dei caselli e il 10 il personale amministrativo e commerciale. I sindacati lamentano una situazione critica che ha portato a una scelta ineludibile. E ora miriamo verso lo spazio. Ha cominciato il lungo viaggio verso Marte la prima sonda cinese diretta al pianeta rosso. La Cina ha lanciato la sua missione Tianwen 1 con il più grande dei suoi razzi, una lunga marcia 5 che ha debuttato con questa missione storica dalla base di Wenchang sull'isola di Hainan. Il lancio segue di pochi giorni quello della missione Hope degli Emirati Arabi Uniti e il 30 sarà la volta degli Stati Uniti, che con la NASA si preparano a portare sulla superficie marziana il loro rover Perseverance. Sentiamo Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ogni 2 anni circa abbiamo un'occasione di lancio favorevole per poter fare un percorso più breve verso il pianeta rosso. La missione cinese ha dei contenuti importanti perché permetterà di orbitare attorno al pianeta, di atterrare con una sonda ed avere anche un rover che si muoverà per fare della ricerca in loco. Marte è per noi molto importante perché è il pianeta più simile alla Terra e in qualche modo può dirci anche quale potrebbe essere il futuro della Terra un giorno, ovviamente remoto, perché Marte ha una sua atmosfera molto rarefatta, che però un tanto tempo fa era più densa, era molto più vicina a quella terrestre. Guarderanno alla possibilità di presenza ancora adesso su Marte di forme di vita, ovviamente parliamo di microbi, di forme di vita elementare. E dallo spazio torniamo sulla Terra, sul terreno di gioco, più precisamente il nostro Carlo Genta e la partita di Serie A maschile Udinese-Juventus, che mi pare stia andando in un modo un po' particolare, Carlo. Beh, pianeta a pallone, è il primo match ball scudetto per la Juventus, che però a 3 minuti più recupero dalla fine non riesce a vincere questa partita, è sull'1-1, Juventus in vantaggio con De Ligt al 41esimo del primo tempo, dopo 7 minuti della ripresa il pareggio meritato peraltro dell'Udinese con Nesterowski. Se la Juventus vince questa partita è già campione d'Italia con largo anticipo, altrimenti niente di particolarmente preoccupante, ma la matematica dovrà attendere. Al momento sembra così perché siamo all'87-58 e siamo sull'1-1, Roberta. Quindi difficile che in meno di 2 minuti dici si ribalti la partita. Tutto per fare gol basta un lampo, però non sembra area di scudetto questa sera per la Juve, di matematica scudetto. Nel prossimo collegamento ti dico tutto. Va bene, allora suspense, grazie al nostro Carlo Genta, ci aggiorniamo dopo. Intanto adesso i vostri messaggi vedo sulla pagina Facebook di Fettonote al 349-238-6666, qualcuno che dice le mele marce esistono ovunque a proposito dell'inchiesta sui carabinieri di Piacenza, i carabinieri hanno subito sospeso gli agenti, la magistratura idem, la politica eccetera eccetera. Ne parleremo naturalmente, ritorneremo sugli sviluppi di questa clamorosa inchiesta e poi prima ancora però subito dopo la viabilità per cominciare gli approfondimenti con gli ospiti, mentre vi ricordo che potete continuare quindi con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666 che è il numero per i WhatsApp, parleremo con il sindaco De Magistris per questa ordinanza che ha annunciato il presidente della Campania De Luca. Tra l'altro in Campania, notizia di oggi, i contagi salgono più che nel resto del sud. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. È chiaro che nei luoghi chiusi questo pericolo è sempre maggiore, tant'è che l'obbligo di mascherine è vigente nel nostro paese nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Dopodiché anche all'aperto bisogna evitare assembramenti. Gli assembramenti sono ancora vietati nel nostro paese anche all'aperto. È chiaro che all'aperto ci sono condizioni di maggiore facilità, è più facile rispettare la distanza di 1 metro in uno spazio aperto che non in una stanza chiusa o in un autobus o in un vagone della metropolitana. Ecco, questo ha detto oggi da noi a 24 mattino il ministro della Salute Speranza, no? A proposito dei dati dell'epidemia in Italia, come sempre vi ho dato conto dei dati aggiornati dal Ministero della Salute all'inizio della sintesi della giornata, no? Che sono un po' un'altalena, un saliscendi. Per il momento sale il numero dei nuovi contagiati, vi ricordo, dal coronavirus nelle ultime 24 ore nel nostro paese, sono 306 a fronte del 282 di ieri, le vittime sono invece 10 a fronte delle 9 di ieri, con un numero complessivo di vittime dall'inizio in Italia della pandemia di 35.092. Avete sentito appunto il ministro Speranza che parla ancora di mascherine e dice che sono ancora vietati giustamente per prudenza gli assembramenti. Il virus, lo sappiamo, circola ancora, non parliamo in altre parti del mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, all'India, però anche noi dobbiamo avere prudenza perché ci sono vari cluster, come si dice, vari focolai da nord a sud che vengono fuori, certo controllati per il momento, però dice ministro Speranza, là dove non ci può essere il distanziamento, non è possibile, quindi nei luoghi al chiuso, negli assembramenti ci vuole la mascherina. E a proposito di questo, chi si dice non solo preoccupato ma preoccupatissimo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che addirittura ha annunciato una nuova ordinanza, dice preoccupatissimo per la situazione, ha annunciato questa nuova ordinanza per la chiusura dei negozi in Campania, dove non solo gli addetti, i gestori, i proprietari di questi negozi, di questi esercizi commerciali, ma anche i clienti, dove non usino la mascherina di protezione, dice ci sarà la chiusura dei negozi. E allora voglio sapere che cosa ne pensa di questa ordinanza, che quindi dovrebbe evidentemente arrivare, il sindaco della città capoluogo della Campania, città più importante che Napoli, quindi il sindaco Luigi De Magistris, che saluto e do di nuovo il bentornato qui a Effetto Notte. Buonasera, grazie, sindaco. Grazie, buonasera. Ma io innanzitutto sono abituato a commentare le ordinanze quando vengono emesse, perché poi se ne fanno tante, se ne annunciano, certe volte se ne annunciano di un tipo e escono di un altro tipo. Io credo che Napoli sinora ha avuto un comportamento esemplare, cioè grande rigore, grande senso di responsabilità. Quando ci sono state delle violazioni sono state sanzionate. Io non credo che aiuti il terrorismo, l'allarmismo, la propaganda da campagna elettorale. Noi dobbiamo coniugare rispetto della salute, buonsenso, rigore, ma anche ripresa delle relazioni sociali, economiche e umane. Quindi i focolai vanno tenuti sotto controllo, bisogna essere molto bravi sul piano sanitario, ma credo dobbiamo dare anche messaggi di coraggio e di vita, altrimenti diventa questa altalena continua, rischiamo di non reggerla, nemmeno dal punto di vista di stress nervoso da paese. Quindi lei diceva, sindaco, appunto, evidentemente non apprezza molto questo tipo di ordinanza, le ha detto terrorismo, propaganda elettorale, perché dice che poi ci sono le amministrative a settembre, quindi si riferiva al presidente De Luca? Guardi, se c'è uno che viola una regola si sanziona. Io credo che bisogna chiamare al senso di responsabilità gli operatori commerciali, le persone. De Luca tratta le persone in generale come untori. Lui ritiene che i campani siano stati bravi perché lui li ha bilanciati con lanciafiamme, ma questo non è un senso. Che rispetto si ha della gente? La gente è stata in casa perché ha capito il pericolo, ha capito come De Luca ha ridotto la sanità pubblica in Regione Campania in questi anni, con 300 posti di terapia intensiva su 6 milioni di abitanti. Quindi adesso se c'è un commerciante che sbaglia va sanzionato, se sbaglia una seconda volta gli va chiuso anche il negozio. Ma il tipo di messaggio che non mi convince, non è quella la strada. La strada è quella di far capire alle persone che il pericolo non è andato via e i campani sono stati molto bravi sinora. A lui compete invece fare tamponi, fare test, rafforzare i presidi sanitari, non smantellarli come è stato fatto in questi anni. Quindi il pericolo non è il cittadino, il pericolo è chi ha smantellato la sanità pubblica e non ha medici sufficienti, non ha anestesisti sufficienti, non ha posti letto sufficienti, non ha reti territoriali sufficienti. È lì che dobbiamo avere ordinanze. Ecco, faccia De Luca qualche ordinanza di questo tipo e avrà il nostro consenso. Sindaco De Magistris, poi ho visto anche che sempre De Luca ha sollecitato l'indignazione pubblica verso coloro che non indossano i dispositivi di protezione. Si è molto discusso durante i lockdown, no, del fatto di dare diciamo licenza alle persone di indignarsi nei confronti di altri che non portavano la mascherina o che avevano dei comportamenti a rischio. Proprio anche su questo, proprio un commento brevissimo, sintetico, lei. Guardi, ho sentito prima il ministro Speranza, sì, nell'apertura della trasmissione, sono parole di buon senso. La mascherina è molto molto utile, obbligatoria nei luoghi chiusi. Nei luoghi aperti è molto più importante il distanziamento fisico, bisogna battere su questo. Io credo che questa è la strada della responsabilizzazione, dei controlli, però basta grevità, terrorismo, allarmismo e soprattutto teniamo fuori la campagna elettorale da questo momento. Mi auguro che ci siano persone che lo capiscono. Sono De Luca, sono 4 mesi che fa campagna elettorale, siamo tutti un po' stanchi. Sindaco, senta, invece per chiudere, a proposito dei fondi promesse ai comuni dal governo, perché voi, io ho intervistato più volte lei, ma anche il sindaco di Firenze Nardella, che minacciava di spegnere anche i lampioni per risparmiare, perché diceva non c'erano i fondi per i servizi essenziali. De Caro, presidente dei sindaci italiani, che è sindaco di Bari, Orlando, di Palermo, sono questi fondi con i recovery fund, abbiamo più speranza che arrivino ai comuni? Guardi, finora non è arrivato quasi nulla e i comuni stanno al collasso, stanno tenendo situazioni con acrobazie e miracoli laici, perché noi 400 milioni in meno sono arrivati, se no 14 milioni. Le misure dell'Europa arriveranno nel 2021, il governo deve far venire un po' di soldi, non li deve solo annunciare, promettere o fare provvedimenti dove stanzia denari che poi non arrivano. Noi dobbiamo garantire i servizi, dai servizi sociali ai servizi pubblici, trasporti, la raccolta dei rifiuti, l'illuminazione. Ormai i sindaci non ce la fanno più, io mi auguro auguro che il governo mantenga gli impegni presi e faccia arrivare i soldi che ha già stanziato 2-3 mesi fa. Insomma, la rapidità è fondamentale per avere liquidità, per tenere proprio il paese in piedi. Benissimo, su questo ci aggiorniamo, insomma, sperando che il governo in questo senso, che aveva già appunto fatto promesse a voi sindaci, le mantenga il prima possibile proprio per le difficoltà che avete denunciato e che lei ha ricordato. Grazie sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Grazie, buon lavoro. Grazie. Bene, mentre appunto sono salutata col sindaco De Magistris, vedo che si è chiusa la partita Udinese-Juventus, ha vinto l'Udinese per 2-1. Per 2-1 quindi viene rimandata la festa per lo scudetto da parte della Juventus. Alle 21.45 poi un'altra partita. Ci aggiorneremo poi con il nostro Carlo Genta. Per i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349 238 6666. Un ascoltatore entusiasta di De Luca, Stefano, dice: per mille diavoli attrazione integrale alimentati a gasolio, De Luca è sulla cresta dell'onda più che un uomo, un tifone, dice addirittura. Allora, breve pausa di riflessione, voi continuate naturalmente con le vostre riflessioni, per appunto i vostri commenti. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E restate sempre su Effetto Notte, perché è qua che potete trovare ogni sera un quadro il più possibile chiaro e esauriente delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, raccontate, raccolte e poi approfondite da me, Roberto Giordano, insieme agli ospiti. Allora, in questi giorni, nelle ultime due puntate praticamente, abbiamo scandagliato a fondo gli esiti del più lungo negoziato della storia dell'Unione Europea, gli esiti in particolare che si concentrano sui recovery fund, quindi sui fondi che i paesi hanno ottenuto, questo fondo, diciamo, del debito messo in comune dai vari stati, di cui l'Italia ha, diciamo, goduto la maggior quota, goduto nel senso che riceverà 209 miliardi, di cui 81 a fondo perduto, che quindi non dovrà restituire. Risultati sui quali c'è stata soddisfazione da parte ovviamente di Conte, che era lì a trattare in questa maratona infinita, di tutte le forze della maggioranza di governo, con però anche una buona accoglienza nel centrodestra all'opposizione da parte di Forza Italia, con Berlusconi in primis, un'accoglienza un po' tiepida, un po' dubbiosa da parte della presidente di Fratelli d'Italia Meloni, e poi invece Salvini, che l'ha subito definita una grossa fregatura, il leader della Lega. Dopodiché la maggioranza però resta divisa sul MES, sul fondo salva stati, che in questo caso sarebbe uno stanziamento con tassi di interesse molto agevolati, tutto però concentrato sulle spese sanitarie, sulla sanità, che rappresenterebbe per i sostenitori soldi subito e appunto da spendere per il sistema sanitario che è stato così gravato dalla pandemia. A questo proposito sentiamo che cosa ha detto oggi a 24 mattino qui da noi a Radio 24 il ministro della Salute Speranza, che ha chiesto, che dice che servono 20 miliardi per la sanità. Da Ministro della Salute io lavoro costantemente per portare più risorse al Servizio Sanitario Nazionale. Oggi io spingo perché tutte le risorse possibili arrivino al Servizio Sanitario Nazionale. Le risorse del MES sono delle risorse che arrivano a un tasso di interesse molto basso, sono risorse assolutamente significative, quindi io sto già lavorando ad un piano esecutivo, cioè a quale può essere l'idea di come spendere queste risorse. Io penso che non ci deve essere nessun pregiudizio su nessuno strumento, quindi da parte mia le risorse del MES vanno bene, il Parlamento dovrà decidere, perché siamo una democrazia, quindi è giusto che ci sia lì una valutazione definitiva. Quello che non può avvenire, contro cui io mi batterò, è l'idea che a un certo punto le risorse alla salute non arrivino. Questo non è sostenibile, questo non è ammissibile. Ma intanto, diciamo, una plastica dimostrazione delle diverse posizioni all'interno della maggioranza dei due maggiori partiti, Movimento 5 Stelle e PD, si è vista oggi a Strasburgo, Parlamento europeo, dove PD e Movimento 5 Stelle hanno votato divisi su un emendamento al MES, una modifica al MES presentata dalla Lega, che chiedeva di respingere un utilizzo del MES, del Fondo Salva Stati, finalizzato a stimolare l'economia in seguito alla crisi del coronavirus. Il Movimento 5 Stelle in questo caso ha votato con Lega e Fratelli d'Italia, mentre i democratici hanno votato contrari insieme a Forza Italia. Quindi, a proposito di maggioranze variabili che a volte vediamo, no? Su certi temi, su certi voti. Intanto saluto Emilia Patta del Sole 24 Ore, bentornata cara Emilia. Buonasera, buonasera a tutti. Maggioranze variabili, dicevo, ma anche su un altro voto al Parlamento europeo, il centrodestra si è diviso sulla risoluzione relativa alle conclusioni del Consiglio europeo straordinario, quello appunto dal 17 al 21 luglio, con Forza Italia questa volta che ha votato a favore insieme al PD e Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia che si sono astenuti e Italia Viva che si è schierata con il centrodestra contro i Dem invece per evitare che si esaminasse la riforma della legge elettorale. Quindi insomma veramente un continuo, sembra di guardare attraverso un calidoscopio, no? In queste votazioni cambiano continuamente le strutture. Ma in tutto questo, Emilia, c'è il Presidente del Consiglio Conte che reduce da due giorni dalla maratona negoziale di Bruxelles, che deve decidere, deve organizzarsi, deve capire come spendere adesso nelle riforme, negli investimenti, questi recovery fund, questi 209 miliardi, pare, vedo, accerchiato, viene definito da maggioranza e opposizione però, che vogliono avere la loro parola su come queste risorse vadano spese. Ha parlato di task force nei giorni scorsi Conte, qualcuno ha detto l'ennesima task force, mentre sembra che si converga su una commissione bicamerale, quindi formata da maggioranza e opposizione per confrontare le posizioni e decidere insieme come utilizzare queste risorse. Sì, l'accerchiamento è avvenuto appunto su due fronti, perché chiaramente i partiti della maggioranza non vogliono lasciare a Conte, al Premier, a Palazzo Chigi la gestione di questa enorme mole di risorse che arriveranno. Sono stati fatti dei paragoni con il piano Marshall, addirittura siamo al di sopra, no, di quello che fu l'aiuto americano nel dopoguerra. Su due fronti, da una parte PD e Italia Viva per una volta d'accordo, in Parlamento stanno avanzando la proposta di questa commissione straordinaria o bicamerale, che dir si voglia, che coinvolga il più possibile le opposizioni. Zingaretti, il segretario del PD, oggi ha detto è inevitabile, insomma, coinvolgere le opposizioni quando c'è da ricostruire il paese. Dall'altra, la stessa task force annunciata da Conte è stata un po' svuotata nelle ultime ore dai ministri del PD importanti come Roberto Gualtieri, titolare dell'economia, e Dario Franceschini, capo delegazione, per cui si sta pensando di utilizzare una struttura che già esiste, che è il CIAE, un comitato interministeriale degli affari europei, che è presieduto dal Presidente del Consiglio ma vede stabilmente dentro il Ministro dell'Economia e il Ministro degli Affari Europei, che sono due del PD, e altri ministri competenti per le materie via via che si esaminano. Questo che vuol dire? Vuol dire che non ci sarà un'altra struttura come quella di Colao, con un presidente tecnico di fiducia del Presidente del Consiglio, perché è lui stesso a presiedere in questa forma collegiale. Insomma, i vari tecnici, si erano fatti nei giorni scorsi alcuni nomi, potranno sedere a questo tavolo, ma appunto come membri, non come i decisori. È un modo per sfilare un po' da Palazzo Chigi la gestione e renderla più collegiale, e dall'altra appunto anche la commissione bicamerale. Quindi sono due strumenti per cui poi Conte viene accerchiato all'interno del governo e anche in Parlamento, perché il Parlamento vorrà dire la sua. E infatti sentiamo, quindi, scusami Emilia, a questo proposito, proprio che cosa ha detto oggi il Presidente della Camera Fico, del Movimento 5 Stelle, a proposito del Parlamento e della sua funzione in questo senso. Io credo che il Parlamento debba dare assolutamente degli indirizzi, un atto di indirizzo che dica come spendere questi fondi, su quale priorità, sia a monte che poi a valle nell'approvazione dei vari provvedimenti. Ci potrebbe essere anche un voto, sì. Emilia, però è vero che c'è la sensazione, pare, soprattutto nel Movimento 5 Stelle, che in questa strategia del Partito Democratico ci sia un modo non solo per aumentare la pressione e l'influenza su Conte, ma anche per continuare a insistere sul MES, che sappiamo Zingaretti anche poco fa lo ha ribadito. Io lo sostengo, dice, lo sostengo, vediamo, ritrovo l'agenzia, mi convincano del contrario. Sì. Zingaretti continua il pressing, abbiamo sentito prima anche il ministro della salute Roberto Speranza, che pure non è del PD, ma insomma liberi uguali, ma hanno bisogno di questi soldi per l'emergenza sanitaria, soprattutto in vista di una possibile recrudescenza del virus in autunno. E anche perché il Recovery Fund sarà, i soldi del Recovery Fund saranno disponibili dal prossimo anno e soprattutto previa presentazione di riforme, insomma c'è anche un anticipo di 20 miliardi, ma anche per questo anticipo bisogna presentare dei progetti di riforma, certo. Mentre i soldi di 37 miliardi e mezzo sono disponibili subito a tassi quasi zero. Da parte del Movimento 5 Stelle c'è un'opposizione soprattutto ideologica, anche per non lasciare campo alla propaganda di Salvini, no? Che dice ritorna la troica nel nostro paese. In realtà in Parlamento ci sono già gli appostamenti, perché si sa, il Movimento 5 Stelle e Di Maio sanno che a settembre arriverà questo voto e quindi poi messi alle strette la maggior parte del Movimento 5 Stelle dovrebbe alla fine votare sì. Ci sono già gli appostamenti perché si sa che una parte dei 5 Stelle, quelli più legati a Di Battista, l'ala dura e pura, probabilmente si schiereranno, e questo non alla Camera ma in Senato comporta un rischio che la maggioranza vada sotto, per cui una parte dei 5 Stelle fuori e Forza Italia che invece vota a favore, come ha dimostrato anche il comportamento di queste ore a Bruxelles. Loro, Silvio Berlusconi e gli Azzurri, hanno sempre detto che voteranno a favore del MES, in questo staccandosi dalla Lega. Quindi ci sono già le manovre per un sostanziale ingresso di Forza Italia nell'area della maggioranza, che vada a sostituire questa parte, si spera, è piccola, il Movimento 5 Stelle spera che sia piccola, di senatori e deputati. Ci sono movimenti, insomma, un certo sommovimento. Emilia, però ormai a settembre anche tra i 5 Stelle, che a parole si dicono contrari, c'è la consapevolezza che questa linea di credito si dovrà aprire, anche perché le casse dello Stato italiano con questo scostamento di 25 miliardi che stiamo per votare sono esaurite. Che si vota il 29 luglio. Infatti oggi, per esempio, Emma Bonino di Più Europa ha detto senza MES non si può chiedere lo scostamento, perché ha detto il Consiglio dei Ministri ha chiesto ieri un ulteriore scostamento di bilancio per 25 miliardi, lo anticipavo infatti ieri, è arrivata la notizia durante effetto notte, ed è su questo si voterà il 29 luglio. Però dice... E ci sono tante spese, dalla messa in sicurezza delle scuole in vista della riapertura, per cui sarebbe già stato, dice la Bonino, possibile il ricorso al MES, la cui linea di credito è aperta dallo scorso 15 maggio, e tutto questo, dice, avviene in un contesto in cui solo per la modernizzazione del sistema sanitario il ministro Speranza, l'abbiamo sentito prima, ha oggi chiesto 20 miliardi, anch'essi, dice lei, ricavabili dalla linea di credito del MES. Penso che a questo punto, ha detto Emma Bonino, il governo non possa presentarsi in Parlamento chiedendo l'autorizzazione delle Camere su un maggiore indebitamento, quindi con questo scostamento di 25 miliardi, senza sciogliere l'equivoco rispetto al MES. Quindi unisce appunto tutte queste cose, no, in questa dichiarazione. Sì, sì, non c'è dubbio. Una volta fatto questo scostamento, che è già insomma un po' un azzardo, non ci sono proprio più fondi, insomma, neanche per la gestione ordinaria dello Stato. Quindi va assolutamente attivato. Di questo è consapevole anche il presidente Conte, che fin qui ha frenato, perché ha proprio per paura che questo voto, ormai arriverà a settembre, possa essere l'occasione per podestarlo da Palazzo Chigi. Ecco, dopo il successo del Recovery Fund forse il Premier sta un pochino più tranquillo sul fatto che non ci sia davvero l'intenzione di toglierlo da lì, e quindi anche lui avalla questa operazione di apertura nei confronti di Forza Italia per andare a tamponare le eventuali perdite di 5 Stelle. Però certo, dal punto di vista del Premier è sempre un passaggio delicato, no? Quando certo, la maggioranza è a rischio, poi non si sa mai come va a finire. La storia parlamentare ci ha insegnato, abbiamo visto di tutto. Emilia, però, a questo proposito, appunto, a proposito di maggioranze variabili, trasversali, eccetera, anche per esempio sul disegno di legge sull'omofobia, contro l'omofobia, c'è stata una prima intesa tra maggioranza e Forza Italia oggi, no? Sulla clausola salva idee. Sì, sì, Forza Italia voterà questa legge sulle omofobie. Tranne un gruppetto dentro Forza Italia che è contrario, però per il resto il partito, se passa questa modifica, passa questo emendamento, lo voterà. Ma sono tutti segnali che Forza Italia sta mandando di avvicinamento alla maggioranza, no? Già sono usciti tre senatori, tra cui Paolo Romani e Quagliariello, che sono i più famosi, Gaetano Quagliariello. Quindi sono tutti appostamenti che Forza Italia sta facendo per la partita di settembre. E si capirà che partita è, insomma, allora a settembre. Sì, non possono stilarsi ufficialmente dal centrodestra, insomma, staccarsi da Salvini prima delle regionali, che sono il 20 settembre. Però lì sarà interessante, appunto, vedere, perché se il centrodestra va compatto nelle regionali, difficile poi pensare, no, che possa... Insomma, comunque, appunto, è un passaggio non sicuro per nessuno, no? Soprattutto se Forza Italia poi dovesse, come sembra alle regionali, avere dei risultati molto bassi nel voto di lista, a quel punto potrebbe esserci una paura dei parlamentari, un fuggi nelle braccia di Salvini, quindi sono tutti calcoli prematuri, ecco. E staremo a vedere, qui aspettiamo con curiosità settembre. Grazie, grazie, grazie a voi, Emilia Patta. Serata. Ciao, buona serata e anche buone vacanze per Emilia Patta, se appunto il farà. Adesso ci stiamo avvicinando a agosto, tra l'altro questa, ve lo ricordo, è la penultima puntata della stagione di Effetto Notte, poi io mi prenderò un certo riposo per un po', e comunque ci sarà la versione estiva di Effetto Notte da lunedì prossimo, dalle, però in un orario diverso, con i colleghi che si alterneranno dalle 18.30 alle 20.30. Adesso c'è la viabilità e poi ritorneremo sugli sviluppi dell'inchiesta relativa alla caserma di Piacenza. Si arricchisce l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo sulle azioni UbiBanca. Anche 5,70 euro in contanti in aggiunta a 17 azioni Intesa San Paolo ogni 10 azioni UbiBanca fino al 28 luglio, con un premio implicito complessivo del 44,7% ai prezzi del 14 febbraio per gli azionisti UbiBanca che aderiscono all'offerta. Costruiamo insieme un futuro ancora più grande. Per aderire all'offerta puoi recarti nella filiale della tua banca o contattare il tuo gestore di fiducia. Per maggiori informazioni visita il sito gruppo.intesasanpaolo.com o chiama il numero verde 800 595 471. Prima dell'adesione, leggere attentamente il documento di offerta, il prospetto informativo e il relativo supplemento disponibili sul sito internet gruppo.intesasanpaolo.com o presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo allora con le notizie da approfondire. Roberta Giordano sempre con voi. Vedo che ci sono schieramenti opposti su Vincenzo De Luca, presidente della Campania, dopo le sue dichiarazioni di questi giorni e dopo questa annunciata ordinanza di possibile chiusura dei negozi in Campania che non rispettino l'obbligo della mascherina, sia da parte dei gestori che dei clienti. E ne ho parlato appunto qui poco fa con il sindaco di Napoli De Magistris. Adesso invece ci spostiamo su Piacenza per gli sviluppi di questa clamorosa inchiesta sulla caserma dei carabinieri, caserma Levante. Nell'ambito di questa indagine, vi ricordo, sono stati arrestati 6 carabinieri con accuse molto gravi di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, lesioni personali, peculato, abuso d'ufficio e falsità ideologica. Oggi anche la Procura Militare di Verona ha aperto un fascicolo su questi 6 carabinieri perché dicono sembrano emergere dei reati militari. Ce lo conferma la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì, è proprio così, sono procedimenti che procedono in modo parallelo, ma anche la Procura Militare sta verificando la possibilità che ci possono essere degli estremi per contestazioni anche di tipo militare, perché ovviamente i carabinieri sono dei militari, dipendono dal Ministero della Difesa, e il Procuratore Generale d'Appello con cui abbiamo parlato tracciava già anche le possibili contestazioni che in un caso complesso come quello di Piacenza potrebbero essere mosse anche ai militari che sono stati arrestati. Non so se vogliamo far sentire. Sì, tu hai fatto l'intervista a Marco De Paolis, appunto, con il procuratore Marco De Paolis. Sì. Sentiamo cuso ha detto. Possono essere in astratto con ipotesi di peculato militare, di truffa militare, di violata consegna, che sono dei reati militari che riguardano il servizio. In questo caso abbiamo delle ipotesi che riguardano proprio le mancanze, le violazioni nell'ambito di un servizio. Questi stessi reati ordinari hanno anche un risvolto militare? Bisogna vedere in concreto in che modo queste condotte si siano intrecciate, perché per esempio un arresto illegale può essere commesso per finalità magari di carattere privato oppure per finalità che sono riconducibili ad attività di servizio. Tra l'altro, Raffaella, il Comando Generale dei Carabinieri nel frattempo ha sostituito il comandante, no, della compagnia della caserma Levante, perché è stato sospeso, esatto. Indagato. Ecco. Esatto, e la stazione, è uno degli indagati che è stato sospeso. Ricordiamo anche che forse il primo caso questo di una caserma sequestrata, no? La stazione dei Carabinieri che è stata sì, sequestrata. Certo, lo dicevamo ieri. Sì, infatti. E poi vorrei far sentire anche un passaggio di quanto ha dichiarato Ilaria Cucchi, ricordiamo, sorella di Stefano Cucchi, di questa lunghissima vicenda giudiziaria, processuale, di tanti tentativi di depistaggio, no? Di omertà, e finché si è arrivati proprio man mano ai vertici con le varie manipolazioni di documenti, eccetera, eccetera. Una lunga battaglia verso la verità. Ilaria Cucchi oggi, a proposito di questa vicenda, ha detto questo. Il fatto che si parli di mele marce lascia un po' perplessi, è un sistema che evidentemente non funziona. E io spero, mi auguro con tutto il cuore che questa volta si vada fino in fondo e non si facciano sconti a nessuno, perché i fatti sono di una gravità assoluta. Sono in effetti fatti di una gravità assoluta, Raffaella, però il ministro... Su questo non ci piove. Ecco, ministro il della punto però, Roberta, sì. Che... Prego. Scusami se ti ho interrotta. Prego. Il punto in realtà che di questa inchiesta e di quello che sarà adesso, anche se vogliamo, la seconda e più delicata fase dell'indagine, è proprio quello di andare a ricostruire un po' la catena del comando, cioè quanti in qualche modo erano a conoscenza delle scorribande dei ragazzi della Levante, come erano chiamati e come è stato registrato dalle intercettazioni, e hanno invece chiuso gli occhi perché in cambio, ad esempio, potevano chiedere di fare numeri, cioè di fare arresti anche illeciti, garantendo invece l'impunità su tutti questi affari, compresi quelli dello spaccio della droga, di tutti questi carabinieri che sono stati arrestati, uno dei quali, colui che si considerava al di sopra della legge, come dice lui stesso in una intercettazione, ora puntava ad entrare nel traffico della cocaina. Cioè, quello che dice anche Ilaria Cucchi è che in qualche modo bisogna andare a vedere ancora una volta quello che è avvenuto intorno a queste persone, certo, che sono state che non ora potevano arrestate. Non sapere, cioè, probabilmente, insomma. Tra che, l'altro, che, diciamo, nella rete di comando, diciamo, in una città per tra l'altro non così piccola, di sicuro forse qualcosa potrebbero aver saputo, ed è questo l'elemento su cui ora si indaga. Raffaella, tra l'altro, c'è qualche ascoltatore o ascoltatrice che forse non ha capito bene la vicenda, che si confonde, dice adesso perché hanno picchiato due pusher e due spacciatori. No, non è solo questa la questione. Se avessero picchiati comunque non sarebbe lecito, ma in ogni caso è perché loro stessi, secondo almeno i magistrati, sarebbero comportati da criminali, perché loro volevano il monopolio dello spaccio di droga, estorsione, esatto, e cose varie, insomma fatti criminali proprio commessi da loro stessi, da questi carabinieri, sempre secondo questa indagine, no Raffaella? Sì, l'ipotesi dell'accusa è proprio questa, cioè che in qualche modo da un lato, diciamo, cercavano di creare una propria rete parallela e clandestina di spaccio attraverso alcuni pusher compiacenti, e invece nei confronti di quelli che non accettavano questa forma di sottomissione a queste regole imposte da questa rete clandestina, scattavano a quel punto soprattutto le botte, così come sarebbe stato, ecco, ricostruito. Quindi, oltre al fatto che poi esistono, come giustamente ricordavi tu, tutta una serie di obblighi l'arma, che il codice penale, che la buona condotta, oltre che il buon senso, impone per far sì che nel momento in cui una persona è nelle mani dello Stato deve essere trattata ancora meglio di quanto non avviene al di fuori, che è quello che è stato un po' il tema anche di molte altre inchieste. Certo, Claudio scrive, forse l'arma dovrebbe stare più attenta a chi arruola, le mele marce possono inquinare un intero raccolto e la gente poi perde fiducia. Oggi, fra l'altro, il ministro della difesa Guerini ha annunciato un'inchiesta interna all'arma per approfondire, dice, se vi siano state criticità nei controlli, come dicevi, nell'organizzazione della realtà territoriale a Piacenza. Poi oggi ha visitato la caserma di Tor Bella Monaca a Roma, accompagnato dal comandante generale dei Carabinieri in Istria. Ha detto, le prime vittime, rivolto a carabinieri donne e uomini, ha detto, di questi fatti gravissimi siete voi, 110.000 uomini e donne che vestite questa uniforme, forte sarà il mio impegno finché vi sia chiarezza, voglio che non vi sia alcuno spazio di ambiguità e di sospetto che possa alimentare anche minimamente la sfiducia da parte dei cittadini all'arma dei carabinieri, insomma. Questo è un punto importante che in realtà anche ieri da subito il procuratore di Piacenza, Grazia Pratella, ha voluto sottolineare, cioè l'istituzione, l'arma dei carabinieri resta comunque una istituzione nei confronti della quale la fiducia non può essere intaccata, e questo diventa ancora più forte nel momento in cui la reazione della stessa arma è stata quella di garantire massima collaborazione, certo, ai magistrati e massima severità nei confronti di chi avesse, appunto, una volta che fosse accertato, la commissione di questi reati così, così gravi. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella, buona Ciao serata. Ciao Roberta, grazie a te. Ciao. Ora il nostro Carlo Genta ci riaggiorna sulle partite, sul finale di questo Udinese-Juventus e poi quella, la partita che è iniziata da poco, Carlo. Sì, Udinese-Juventus era la partita in cui la Juventus poteva vincere lo scudetto, avesse vinto la partita di Udine, invece ha perso, perché ci eravamo lasciati sull'1-1. Invece nel tempo di recupero l'Udinese, ma con pieno merito, è riuscita a segnare con Fofana, a vincere la gara, a festeggiare la salvezza, rimandando con grande amarezza della Juventus una festa scudetto che dopo il gol di De Ligt in chiusura di primo tempo sembrava alle porte. Invece la Juventus dovrà aspettare probabilmente il weekend, gioca in casa con la Sampdoria, anche in quel caso vincendo, secondo me Spall vincendo, si aggiudicherebbe il nono titolo consecutivo. Però per questa sera niente festa, la Juventus dovrà aspettare in campo la Lazio con il Cagliari 0-0, ma insomma la partita che poteva chiudere i giochi si è chiusa con la vittoria dell'Udinese contro la Juve. Proprio così, all'ultimo minuto, pensavamo l'ultimo secondo. Incredibile. Grazie. Grazie caro Carlo Genta. A domani naturalmente tutti convocati alle 14 con Carlo Genta. Ciao Carlo, buona serata. Ci riaggiorniamo alle 22.